Sì, sta. È così. Rinchiuso in un mondo malato, in una realtà che non ha mai cercato. Rinchiuso in un mondo sbagliato, con della gente che non ha mai cercato di migliorare il proprio stile di vita, di cambiare strategia durante la partita, di trovare un modo per migliorare loro stessi e gli altri, ma senza barare, di avere qualcosa a cui tenere, per cui vale vivere e non morire, di cercare un motivo buono per continuare, senza prendere tutto e buttare all'aria anni e anni e anni di ricerche, che ti sputtarono come un fischio sotto le coperte, e come la morte ti prende all'improvviso, ecco un'altra lacrima che scende dal tuo viso. Quando ormai hai capito ed è troppo tardi che è stato fatale quell'incrocio di sguardi, a cambiare la tua vita in via definitiva, a fargli prendere una strada demolitiva, la voglia di essere come quella di assomigliare, cosa pensi che faccia, fa solo del male, e poi si dice gioventù bruciata, ma non ti pensi che mondo è trappolata, dove la modella la fa una drogata e dove chi ha talento viene scartata, bloccato in questo mondo malato, bloccati in questo mondo sbagliato. Yo. Sì, sì. Sono rinchiuso in un mondo malato. Sono rinchiuso in una realtà che non ho mai cercato. Sono rinchiuso in un mondo sbagliato. Rinchiuso con della gente che non ha mai cercato. Mi c'è voluto troppo tempo a capire che il bene non esiste, si può solo pregare. Chi ancora ci crede e non vuole pensare, in un mondo dominato dal male, siamo in alto mare, cosa ci vuoi fare? Il mondo va a puttane e ti sai solo lamentare. Saranno solamente loro i finti attivisti che si mobilitano per i posti più pesti. Ma alla base c'è il solito noto, nulla per nulla, questo è quanto anche se poco, rende schiava e bramosa la gente che lo desidera di più senza sapere niente, e per averlo vedi cosa si è pronti a fare, ci si sputtano in giro pur di arrotondare, allora mi viene da pensare, piango la notte per non dormire, se penso che in questo mondo ci dovrò morire, morire. Che cos'è 64? Ancora una volta.